Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Buonasera, bentornati in diretta a Ethno Chic, Radio Città del Capo 94.7 96.250. E ricordiamo, salutando Babe. Eh sì, buonasera a tutti, 21.33 minuti primi. Anche questo mercoledì in diretta, per fortuna, siamo tornati in diretta sulle frequenze di Radio Città del Capo, ve le ricordo, 94.7 oppure 96.250 megacicli in modulazione di frequenza, oppure magari chissà, non siete nell'area bolognese e ci state ascoltando attraverso il nostro sito web, che lo ricordo, rcdc.it. Eh sì, di nuovo ancora in diretta a parlare di queste musiche a indicazione geografica protetta, e quindi abbiamo spesso ospiti che appunto sono un po' dei testimoni o comunque hanno radici da qualche parte del mondo, della nostra penisola. In questo caso abbiamo ospite il musicista, studioso, insegnante Stefano Mongiat, chitarrista di origine tra il Friuli e la Croazia, che stasera ci porterà sulle rive dell'Adriatico. Buonasera a tutti e grazie Vladimiro e grazie Babbe, che ho conosciuto stasera, e grazie Radio Città del Capo che mi ospita. E hai ragione, è vero, si parla proprio di radici, perché questa occasione mi ha fatto riscoprire un pochettino, fatto ricordare quando passavo per esempio le vacanze in Slavonia o nella Posavina, a Slavonski Brod, che è un po' nell'entroterra. Vladimiro, avete sentito, aveva detto Adriatico, ma noi partiamo un pochettino da molto più dentro, dove io ho passato insomma il più del tempo, anche perché nonne, zii, amici eccetera eccetera, perché io sono metà di Pordenone, Friuli, e l'altra metà della Croazia. Beh, sei un tipico cittadino asburgico. Esatto, sono stati anche sotto gli Asburgo. Della mite Europa. Sappiamo insomma che hanno ottenuto l'indipendenza tra il 91 e il 92, e io sono nato nel 77, insomma sì, siamo quelli del 77, insomma sono un'annata un po' strana. E quindi questo... Il primo brano con cui partiamo? Bene, allora, il primo brano con cui partiamo è un brano pieno di vita ed è un slavonsko kolo, che voi sapete cos'è il kolo, è la danza della zona praticamente dei Balcani, la danza in cerchio, e questo tipo di suono, quello delle slavonske lole, è quello che mi ricordava, mi ha ricordato insomma quando andavamo con la Yugo 55 di mio nonno, tutti insieme stipati in macchina, mette sulla cassetta insomma delle musiche popolari, e c'era anche questa che Vladimiro adesso ci fa ascoltare, ricordo. E questo è il colore che io vivevo da piccolo. Thank you. Questo colo, questa danza che è appunto diffusa in tutto l'entroterra appunto dei Balcani, fino a quasi tutte le comunità slave del sud, fino anche a, per esempio, a Sant'Endre, quindi la zona dell'Ungheria dove ci sono le minoranze slave, hanno queste danze. Esatto. E quelle che avete sentito erano le tamburice, famose. Divise, vi dico subito come sono che divise. Sono dei liuti in realtà, fanno parte della famiglia dei liuti e, come avete sentito, prendono tutta la gamma musicale. Sì, sono varie misure. Esatto. Sono, è come se fosse la, prima... la famiglia del violino, viola, violoncello. Bravissimo, perfetto. La prima si chiama bisernica o anche prim e viene La prima usata. Intendi dire quella più piccola? La prima è quella più piccola, quella che fa che è solista, insomma, poi accompagnata dal bass prim, che è il brach, si chiama brach in realtà, che di solito raddoppia la melodia, poi c'è la bugaria che fa gli accordi, è il contra cosiddetto, no? E dopo c'è il cello o cellowitz, che è il basso contra, e dopo c'è il vero e proprio basso, che si chiama berda, c'è un'assonanza anche con la parola bordone, ovviamente, e poi questo è l'ensemble delle tamburice. E andando verso le Alpi Dinariche, invece, dopo che abbiamo superato la piana attorno da dove siamo partiti, insomma, certo, siamo partiti dalla Slavonia, quindi siamo a est di Zagabria, giusto? Esattamente, a ovest adesso di Zagabria, sì. Comunque sono un po' lì attorno adesso. Mm-hmm. Sentiremo un brevissimo pezzo di un tipo di liuto piccolino che si chiama shamiza, che è proprio molto usato da quelle parti, dato c'è un costruttore molto famoso di Kuterevo, questo è il paese uh-huh. dove c'è questo liutaio. Se volete andare a prendere una shamiza, andate lì, perché lui se ne ha tantissime e in un'intervista ha detto che nessuno più vuole suonarla e quindi c'è bisogno di gente che la suona. Esatto, ok, sentite, quindi, che bello. Cari radioascoltatori, due corde, doppie. Come si chiama il paese? Si chiama Kuterevo. Kuterevo, quindi cercatelo, intanto ascoltate e sentite se questo strumento, insomma, colpirà la vostra attenzione. Quindi la dangubiza invece è un altro strumento. La dangubiza, che... grazie Vladimiro che me lo chiedi, da shamiza e dangubiza sono quasi uguali, solo che la dangubiza ha il corpo più lungo ed è sempre costruito ovviamente dal nostro generoso liutaio di Kuterevo. Bene, andiamo. Eccoci, siamo di nuovo a Ethno Chic, qui con Stefano Mongiate e musiche dalla Slavoia fino alla Costa Dalmata. Piano piano ci stiamo avvicinando all'Adriatico. Sempre zone rurali però, mi sa, anzi, se mi viene da pensare a musiche popolari, penso a questo tipo di musiche. Esatto, queste hanno il colore che uno si immagina, proprio di quelle zone lì. Siamo partiti con i cordofoni perché sono gli strumenti, diciamo, più diffusi. Che sì, che sono dominanti. Poi, esatto. Però vedremo che non sono esclusivi. Adesso, andando subito al dunque, quindi andiamo verso l'Adriatico dopo che siamo partiti, insomma, dal posto dove ho il cuore, una parte del mio cuore, diciamo, e svalichiamo e andiamo a sentire un colo però cantato, che siamo già verso l'isola di Kirk. Quindi, che, come ricordiamo, è praticamente al largo più o meno della città di Rijeka. Esattamente. Siamo nella parte nord della Costa d'Alba. Ed è, diciamo, l'isola dove, diciamo, la storia di questo tipo di musica ha continuato a esistere nel tempo. Fino a oggi. Buon ascolto. Il nastro aveva qualche problemino. Evidentemente, sì. Non so cosa sia successo. Comunque, questa è una Nenia, ovviamente, per qualcuno che l'ascolta così senza conoscere questo tipo di canto. Le prime parole dicevano "O devoico duscio moia". Io l'ho detto con l'accento della Slavonia, ovviamente, no? Ragazza, anima mia. Quindi, per tutti gli italiani che vogliono esplorare le zone di là, insomma, incontrano una bella ragazza, possono dire "Oh, de voi coduscio moia". Grazie per la ripetizione. Come stai? Queste cose, no. Sì, va bene. No, così io è più mi poetico. Chiamo. Adesso, ragazzi, andiamo. Dove ci allora, si porta, rimaniamo nella nostra bellissima isola di Kirk e ci ascolteremo un dittico, un Tanaz e un Balon. Che sono, Balon l'ho detto invece con l'accento del Friuli, e comunque sono tutte e due Tanaz, comunque danza, e Balon è un ballo, ovviamente è un ballo grande. Tanaz danza. La cosa che ci interessa però di questi due tipi, questi modi di suonare, sono proprio gli strumenti, che sono le sopelle, o rosenizze, come volete chiamarle, sono quasi uguali come strumenti. Che strumenti sono? Sono sempre strumenti a corde? Fanno parte della famiglia degli oboi e sono strumenti ad ancia doppia dal suono super penetrante, e la cosa particolare è che suonano in una maniera molto molto strana. Fino adesso avete sentito, e da questo che volevo partire, musica che bene o male riuscite a comprendere, no? Musica armonica. Qui invece stiamo per farvi ascoltare come suona la scala istriana. e ve ne parleremo dopo. Buon ascolto. Roba da minimalismo anni 70 newyorkese, altro che dissonanze. Eh sì, infatti in realtà... Altro che dissonanze, spesso. Scommetto che avete abbassato almeno di una tacca il volume del vostro impianto. Se, e, l'ultimo pezzo che abbiamo ascoltato non era suonato dalle sopele, il primo era suonato dalle sopele, come dicevamo prima, gli oboi a doppia ancia, il secondo è un mih cosiddetto, che sarebbe l'analogo della vecchia piva, comunque una cornamusa, insomma. E, infatti si sentiva anche il suonatore e anche cantante, si chiamava Martin Kutic, un virtuoso di questo strumento. Avete sentito anche la linea ritmica e melodica, che era molto molto interessante. Talmente interessante che un tipo chiamato Livio Morosin ci ha fatto anche un pezzo che adesso vi facciamo ascoltare per un po', non tutto, perché comunque il messaggio è quello. E, buon ascolto, prego. We'll be right back. le testoline cominciano a muoversi qua. Esatto, esatto. Questo praticamente è una specie di remix alla fine. Esatto. Poi il signor Morosin si è preso una featuring comunque da Martin Kutis, come dicevo prima, che comunque insomma che non c'è più. Okay. Si è preso un featuring da un morto. Allora. Stavamo parlando della questa scala istriana. Che cos'è questa scala? Ecco, la scala istriana. Allora, per i tecnici, no, si può dire che è una scala che fa mezzo, come una scala semidiminuita, insomma, no, diminuita. Mezzotono, tono, mezzotono, tono, mezzotono, tono. Ma questa è una semplificazione, insomma, sappiamo che soprattutto le trascrizioni, anche il primo che l'ha, diciamo, teorizzata, perché non esiste la teoria, prima esiste la pratica, come voi sapete. Il primo che l'ha teorizzata è il signor Matetich Rognov, che è stato, diciamo, uno dei più grandi etnomusicologi, insomma, di quelle zone. E la cosa particolare è che questi mezzotono, tono, mezzotono, tono che noi semplifichiamo in maniera temperata non sono in realtà, perché ci sono le distanze sono un po' di più, un po' di meno, si parla di cent, si parla di quarti di tono, eccetera, sì, eccetera. È un po' come il discorso dei makam arabi, non si possono fare proprio esattamente le distanze, lo puoi teorizzare, ma solo per amore, giustamente, della cultura, però l'unico modo di conoscerlo è suonarlo, semplicemente suonarlo o ascoltarlo, insomma, ecco. Alla faccia di Pitagora. Alla faccia di Pitagora, adesso sì. Non abbiamo tempo per approfondire, anche perché abbiamo dei bellissimi ascolti da fare. Il prossimo discorso sarebbe talmente ampio. Sì, lasciamo stare. Farci lasciamo un anno stare. Di puntata. Non siamo, cioè, sono le 10, ragazzi. Sono le 10:01 e 04. Esatto, basta. Bene, adesso andiamo ad ascoltare. Ascoltiamo, iniziamo a familiarizzare con il termine clappa, no? Che dopo vi spiego. E con una clappa di donne, una ženska clappa, come si dice in croato, con un pezzo, con il testo scritto da un autore, quindi sì, è musica, non è proprio musica tradizionale come gli etnomusicologi immaginano, è già un po' più patinata, e l'introduzione è data anche qui dalle sopele, quindi abbiamo una matignada di introduzione e poi la vera e propria canzone e coro, che si chiama Chai Amore. Tananinai. Sfumiamo sugli applausi e i prossimi brani vi facevo raccontare da Stefano Mongiat, mentre salutiamo Mariana che è arrivata e ci ha raggiunto in studio. Buonasera. E insomma andiamo sempre avanti con comunque non solo insomma linguaggi tradizionali applicati a altri linguaggi, abbiamo sentito. Perché la trasmissione si chiama Ethno Chic, esatto. E quindi dobbiamo insomma cose ascolti anche particolari, non proprio insomma con molti differenti, cioè proprio linguaggi musicali nei differenti contesti. In questo caso proprio sentiamo questa cantante che si chiama Tamara Obrovac, giusto? Esattamente, Tamara Obrovac e il Transistri Ensemble. Questo in realtà mi pare che sia il secondo disco che hanno fatto un po' di anni fa, no? Tra l'altro è stata anche qui a Bologna a fare un concerto, e penso non solo uno, memorabile quello in Piazza Santo Stefano, per chi c'è stato, mi pare nel 2004-2005. Quindi lei riprende un po' queste musiche in chiave un po' jazzistica. Esatto, ci sono comunque, li ho portati apposta. Ci sono all'inizio c'è il coro e poi anche l'introduzione sempre delle soppelle, delle famose soppelle. Andiamo a sentire. Ni nega ni poboga chi bimi pomoga ko bimoga nai ti soyu e bravezzo. Teške snope trdo brime, do malina nosi vrime, črni malin klopota, dok se ni odmota. U dvelega petka, do velega petka, u dvili je bojže, do bojžega svetka, kola drežnje malinar gre. Dok ne dojde kosica, dok te kosac ne pokosi, pa kad dojdu po užanci, tresu čkalan zadnji tanci, ni da neće buru znati, kad se slože črni svak, ti nećeš znat ni začni tač, kad ti zmi se sukolač, kad ti zmi se sukolač, kad ti zmi se sunukolač. Thank you. E siamo sempre su Ethno Chic, Radio Città del Capo 94.7 96.250. Vi ricordiamo che tutte queste puntate sono piano piano caricate per ora in un podcast sul sito della piattaforma archive.org. Dovete cercare Ethno Chic prossimamente, penso per la prossima stagione, perché siamo un po' con l'acqua alla gola a fine stagione, tanti impegni. Lo caricheremo sul sito, sul podcast della radio. E Stefano, allora continuiamo adesso una brevissima parentesi parlando della lingua, della scrittura in realtà glagolitica, portata qui dai fratelli di Tessalonica, Metodio e Cirillo, loro. Più o meno, esatto, sempre loro, sempre i cari vecchi Metodio e Cirillo, e hanno insegnato, diciamo, alle tribù slave dell'epoca, tra cui c'erano anche i Liburni, da cui poi sono derivati i croati, però c'era talmente tanta gente che sì, gli storici dicono quello che devono dire, però chi lo sa in realtà. Questa lingua, da cui poi si è sviluppato il cirillico, però non è cirillico, è diverso, ha dei segni molto molto quasi dei segni grafici, intendi, molto sì differenti. Dei segni grafici, c'è anche a Roch, in una città, paese dell'Istria, ci sono anche proprio delle chiese, anche la famosa pietra con le scritte in glagolitico, insomma c'è tutto un percorso da fare in Istria per vedere questa testimonianza antica di un rito ecclesiastico, insomma, che sta continuando ancora fino ai giorni nostri. Ma è un rito relativo alla religione cristiana o sono relativo, riti pagani che sono stati... Ottima domanda, è vero. No, è un rito cristiano, però è stato ripetutamente osteggiato nel tempo dalla chiesa cristiana. Ma in quanto una specie di eresia, in quanto legata alla tradizione ortodossa, anche se primigenia? Beh, loro potevano dire quello che volevano, comunque Cirillo e Metodio non venivano da Roma, quindi c'era un qualche c'erano già i primi dibattito tra chiesa d'Oriente, certo, chiesa, no? E la cosa particolare è che questo tipo di canto usa anch'esso la scala istriana, come sentiremo. È un canto molto affascinante. Questo minuto e mezzo di canto proviene dalla chiesa di Lasnice. Andiamo a sentirlo allora. Insomma, cari ascoltatori di rito cristiano, se magari quest'estate vi troverete in Istria sull'isola di Kerk al mare, la domenica vorrete andare a messa, non perdete l'occasione, perché vi potete ascoltare un bel coro che vi cantano questi canti glagolitici, giusto? Tanto, da, certo, certo. Poi da quelle parti molta gente parla italiano, quindi se avete dubbi sul significato potete chiedere. Non lo so, se si trovassero per esempio più giù i Dubrovnik, tutto questo non lo troveremmo, giusto? Un altro mondo. Oh, mi hai portato in basso, ma guarda caso è proprio dove volevo andare. Allora, alleggeriamo un pochettino, se così si può dire, l'ambiente mesto ecclesiale e andiamo subito ad ascoltarci un bel lingio. Allora, il lingio è suonato con la lirica. Esatto. Cos'è la lirica? Cos'è la lirica? È uno strumento di derivazione greca, tu conosci anche, è a tre corde con la corda. Quindi è uno strumento a corde. È uno strumento a corde. Meglio, anzi, spiega bene. Uno strumento a corde, però non a pizzico, uno strumento che si suona con l'archetto, seduti. E con il piede destro o sinistro, dipende, e si batte il tempo. Sentirete. Quindi è una specie anche di lira. È una lira. E che differenza c'è con la nostra lira calabrese, per esempio, che è ancora... Esattamente. Guarda, io ho visto le lire calabresi e devo dirti che non c'è molta differenza tra le lire. Forse il numero di corde, la lirica croata ha tre corde. La prima si usa per fare le melodie, le altre sono dei bordoni. E quella calabrese, anche io ho visto anche lire calabresi con tre corde. Sì, a me pare che abbiano proprio tre corde. Esatto, vengono comunque suonate con l'archetto. Ovviamente lo stile esecutivo è diverso, però nel 500 i croati sono arrivati anche fino in Molise, non erano solo lì dalle parti di Venezia. C'è anche la minoranza croata molisana che è anche quella. Qualcuno sarà andato, no, non è detto che abbiano portato la lira loro, perché certo, insomma ci sono stati i greci, esatto, anche che giravano a quei tempi, però insomma è uno strumento usato e anche molto bene. Diciamo che il lingio, il pezzo che stiamo per ascoltare, sì, è il colo della Dalmazia, ecco. Quindi buon andiamo ad ascoltarci questo ballo. E questo lingio Mariano. Cioè, io mi sono trovata proprio in America ballando una quadriglia, però con questo, con questa lingua sconosciuta per me. Cioè, mi sono trovata guarda, lì. Appena l'hai detto, subito mi si sono dritate le orecchie perché hai ragione. E tra l'altro faccio la parentesi che anche le minoranze, che non è poi neanche tanto minoranza in America, dei croati, è molto molto molto attiva anche nella, nel revival della musica croata. Lui, tu hai detto quadriglia e tra, c'è in repertorio, c'è in repertorio anche la quadriglia dei suonatori di Lingio. Tra l'altro i suonatori di Lingio, oltre che quello che sentivate, il testo in realtà dava le disposizioni ai ballerini in cerchio, cioè diceva cosa fare, fondamentalmente i movimenti. È molto molto bello da vedere questo spettacolo, se ti... avete la fortuna di, insomma, andare da quelle parti, Dubrovnik, Split, eccetera. Ti fermo perché la chiusura l'avevamo dedicato a un po' sì, quelle che sono le fonti storiche che ci raccontano di come tutti questi repertori, in particolare adesso ci soffermeremo sempre alla regione di Dubrovnik, hanno comunque una tradizione secolare che è stata documentata da alcuni personaggi che per fortuna nelle loro cronache ce ne hanno parlato. Qui ragazzi abbiamo una chicca. Abbiamo una chicca che viene dall'isola di Hvar, l'esina per gli italiani, no? Che è l'isola sempre al largo di Spalato. Esatto, sicuramente qualcuno di voi ci è andato ed è andato a Starigrad, e a Starigrad ha visto una statua di un uomo con la barba che si chiama, che si chiamava Petar Hektorovic. Adesso io consulto le mie carte. È un signore che è nato nel 1487 ed è morto, ci ha lasciato, nel 1572, e all'età di 72 anni ha fatto una cosa particolare, una cosa... 72 anni, giusto? Sì, sì, era un neoplatonico, quindi a lui piaceva la bellezza, la cultura, condividere le cose belle del mondo. Era un filosofo. Era un filosofo ed era un naturalista ed era un musicista ed era come diciamo i grandi pensatori del passato, quelli che non si tiravano indietro. Esatto, non si tiravano indietro, poliedrico come si dice, no? Non si tiravano indietro proprio davanti a niente, e hanno dedicato una vita a conoscere, a condividere, dicevo, le cose belle del mondo. E ci ha lasciato scrivendo, ve lo dico in croato prima, Ribanje i ribarsko prigovoranje, e che in italiano vuol dire la pesca e i discorsi dei pescatori. È proprio una cronaca di tre giorni. Lui è uscito con due suoi amici pescatori, tale Pascoi e tale Nicola, e si è fatto un itinerario normale per l'epoca. Sono usciti a pescare, non è che sono usciti per fare delle cose... Per fare una crociera. Esatto, delle cose sovraumane, no? Sono usciti per pescare. E nel frattempo il signor Hektorovic esordisce così nel suo La pesca e i discorsi dei pescatori, un grazie profondissimo alla signora Sara Trampuz per aver tradotto nel 2017 dal croato del 1500 questa bellissima opera, che trovate liberamente scaricabile su internet e legalmente, specifiche. Esatto, e una parte dell'inizio è questa, no? Vediamo, scusate. Leggendo ho trovato un bel passo. In esso i saggi sostengono che niente può mantenersi a lungo senza subire cambiamenti, e che molti affanni pesanti da sopportare condurranno l'uomo alla morte. Che chi non vuole soccombere farebbe bene a riposarsi, lasciando le occupazioni stancanti che apportano danno al corpo e alla vita, indeboliscono l'energia, il giudizio e la ragione. Perciò sta scritto anche: si riposi dopo le fatiche chi non vuol morire anzitempo per una vita frenetica. Ok, va bene, aveva 72 anni, però lo possiamo anche attualizzare questo, e come questo, auspicio, questa introduzione. Esatto, e lui lo mette come, dopo aver ringraziato, ovviamente si parla del 1500, a Venezia iniziavano le prime stampe di grandi libri e di grandi spartiti, e lui, dopo aver ringraziato ovviamente il signore, il tale Jeronim Bartuszewicz, che gli ha permesso di pubblicare questa opera all'epoca, cioè non è che ci volevano quattro soldi per pubblicare un libro, e lui poteva e l'ha fatto, grazie signor Rektorovich. E la cosa interessante però è che è, secondo tutti, il primo etnomusicologo vivente. Sì, perché... non vivente, scusate, sì, morto, vivente, che c'è stato. Che insomma uno dei primi che ha raccolto dei canti tradizionali dei pescatori, no? Esatto, esatto. Esatto, ma non è che li ha raccolti e ha scritto solo il testo. Come facevano molti anche esatto. fino all'800. Lui, visto che conosceva, sapeva che a Venezia stampavano anche musica, ha detto, oh, senti, io ne so qualcosa. Cose di musica, ho sentito e mi sono annotato i canti di questi due pescatori, che ovviamente erano e sono ancora, tra l'altro, canti epici, però dei canti epici, ragazzi, secondo me non abbiamo tempo per parlarne oggi, e abbiamo la musica, no? E abbiamo anche, adesso vi faremo sentire, la musica. Di, sentiamo di questo, dei brani che sono stati esatto, scusate, da lui, sono un po' stanco. Nella riproposizione di Dragan Mladenovic. Insomma, ce ne sono tanti di. Sì. Però questo io l'ho scelto, anche se è serbo. L'ho scelto perché ha cantato tutto il testo. Ok? Il primo canto si chiama, in realtà, ripeto, si tratta di musica epica, quindi sono chilometri e chilometri di testo, ok? Certo. Però si intitola un attimo, che ve lo leggo bene. È una bugarsica, che è un modo di cantare epico, tra l'altro, per chi conosce la Bosnia avrà sentito la guzla, no? In questo resoconto lui dice che il primo canto, cioè questo, quello, la bugarsica, si canta e basta. Il secondo canto invece si canta alla maniera dei serbi, c'è scritto, no? In quel periodo gli ottomani stavano spingendo per entrare dalla Bosnia, certo, per avanzare. E allora questa spinta e le conseguenti migrazioni dall'interno verso la costa hanno portato anche probabilmente i guslari bosniaci a conoscere questi testi qua, oppure al contrario, il signor Rektorovich a sentire dei guslari che cantavano i canti epici, e allora l'ha scritto nel suo resoconto. E noi ci salutiamo. Noi ci salutiamo con questa bugarsica, Kada mi se Radosav vojevoda odiljaše, mentre il principe Radosav si allontanava. Purtroppo non abbiamo tempo di leggere neanche un passo. E con questo canto epico vi salutiamo, ringraziamo molto Stefano. Esatto. Devo dire una cosa, abbiamo lasciato indietro tante cose, veramente, perché abbiamo poco tempo. Tornerai, Stefano? Volentieri, molto volentieri, vi parlerò forse della Sevda e di altre, e porterò anche, suoneremo anche diretta. Saluto mio figlio Ivan, un attimo, ciao, e saluto Concetta, la mia donna, ciao. Ciao a tutti e buona serata. Cada misera do salemo e voda odiljaše, od svojega grada divnoga sive rina. Često misera do sajna siveri noži raše, ostavljam beli grado sive, Rime moj divni grade. Ne znam večeri uvite, ne znam večeri vidiš li me. Svoje tada družina se zavratimo ka gradu Siberinu. A on mi se junakom tihim ukomuji, maše radosave, teretom je